Non far così, Carlotta. Un libro in tasca di Rosemary Wells. Per Martino, il più piccino, sempre pronto è il buon budino. Rita, grande per età, gioca sempre col papà. A ricevere i bacini sono sempre più piccini. E Carlotta, poveretta, piange e aspetta, piange e aspetta. Sono sempre trascurata, farò qualche birbonata. Si precipita in cucina con un'aria birichina, sbatte e strepita finché spande i chicchi del caffè. La mamma la rimbrotta: "Non far così, Carlotta!" Dice Rita la grandina: "Che sorella stupidina!" Martino il fortunato tutto il giorno viene curato. Rita cuoce biscottini, pan di Spagna e pasticcini. Babbo scherza con Martino che ridacchia il malandrino. E Carlotta, poveretta, piange e aspetta, piange e aspetta. Poi si infila nel salotto e combina un 48. E con gran soddisfazione fa volare l'aquilone. La mamma la rimbrotta: "Non far così, Carlotta!" Dice Rita la grandina: "Che sorella stupidina!" Ogni sera per Martino c'è una fiaba ed un bacino, mentre Rita, più importante, trova sempre un aiutante. Se Martino si è svegliato, viene presto consolato. E Carlotta, poveretta, piange e aspetta. Piange e aspetta. Che dannata situazione! Prenderò una decisione. Me ne vado via di qua! Sbatte l'uscio e se ne va. Babbo e mamma disperati ora son preoccupati mentre Rita, grandicella, piange: "Voglio mia sorella!" In soffitta, nella vasca, non si trova la fuggiasca. In cantina, nel giardino, viene frugato ogni angolino. La mamma sembra una fontana. La mia bimba è ormai lontana. Il papà, tra le cartacce, cerca forse delle tracce. Ma da dentro il ripostiglio salta fuori con scompiglio chi? Carlotta, quel folletto! Vi è piaciuto lo scherzetto?